9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io. Buongiorno, buongiorno caro ascoltatore, buon inizio di agosto. No, no, tenetemelo Iannacci, perché Iannacci ci serve a ricordare che eravamo stati buoni profeti quando abbiamo visto, prima che Mario Draghi parlasse, che qualche cosa si metteva in moto all'interno dell'Eurodifesa. Non era certo il taglia spread, lo scudo per il quale l'Italia di Monti aveva messo il veto all'Eurovertice del 28 di giugno, però Mario Draghi sta facendo il suo effetto e il giro che in questi giorni impegna il Presidente del Consiglio Monti, l'incontro di ieri con Hollande che ha confermato la fermezza con cui gli euromembri stanno tenendo botta al no tedesco, continua a fare il suo effetto. Oggi la missione di Monti si sposta in Finlandia, paese tradizionalmente a sostegno della posizione tedesca. Certo, fa un po' impressione vedere, considerare come questo grande successo uno spread italiano che rimane ben fermo sopra quota 450 punti. Perché parliamoci chiaro, è possibile immaginare che l'Italia possa continuare a inglobare stabilmente 450 punti di rendimento in più rispetto ai tedeschi nel costo della provvista di liquidità delle banche, nel tassi degli impieghi alle imprese, alle famiglie? Ovviamente no. Comunque questo non è uno spread accettabile. Comunque il vengo anch'io, no tu no, sta diventando vengo anch'io sì tu sì. E per il momento che volete che vi dica? Non resta che sperare. No, tu no. Ma perché? Perché no? Scrivono oggi su Corriere della Sera Alberto Alesina e Francesco Giavazzi: farcela da soli si può, perché sì, è vero, è possibile che l'unico modo per consentire all'euro di salvarsi sia quello di dire alla BCE di acquistare i titoli. Però la via d'uscita per l'Italia deve centrarsi su se stessa. È di questo che anch'io sono convinto. È questo quello che trovate nell'appello sul sito www.fermareildeclino.it. Inutile illudersi: o l'Italia affronta con un grande patto chiaro con gli italiani l'abbattimento del debito pubblico e recuperando margini per la sua politica di bilancio, cioè per la retrocessione di ogni singolo euro di spesa elevato di spesa pubblica in meno tasse al lavoro e impresa, oppure la prospettiva per uscire da questa terribile crisi che colpisce il PIL italiano più degli altri non c'è, c'è solo un riprodursi di vicende come quella della Sicilia. Un grande paradosso: ieri il Lombardo si è dimesso, si andrà a votare a ottobre, eppure nessuno è in grado di dire quanto profondo è il mare, per così dire, cioè quanto profondo è l'abisso dei conti lasciati in Sicilia. Molti ascoltatori siciliani hanno protestato duramente, dicono che io mi unirei a una specie di orgia, di demagogia contro la condizione della Sicilia, l'attacco all'autonomia. Quello che mi colpisce agli italiani è come si dividano in tribù e come diano sempre la colpa a qualcun altro. Cioè, di fronte ai 15,7 miliardi di residui attivi, possibile mai che non vi rendiate conto che essi parlano da soli della irrecuperabilità di una efficienza minima della macchina pubblica siciliana? La colpa di chi è? Degli altri? Il grande vanto è di avere un debito pubblico in proporzione al PIL siciliano largamente inferiore a quello del PIL italiano. Ma guardate che la Sicilia non emette debito proprio, quindi questo tipo di statistica vi potrà far gonfiare il petto, ma è solo la testimonianza di come avete vuota la mente. Allora andiamo al punto di oggi. Oggi è Sant'Alfonso Liguori, auguri a chi festeggia il nome Alfonso. Oggi ci occupiamo di Fiat. Perché ci occupiamo di Fiat? Perché lo spunto è ovviamente ricordarvi, ma questo lo trovate sui giornali di oggi, lo avete sentito ai giornali radio di ieri e telegiornale di ieri. Lo spunto è quello del check-up dato dalla trimestrale dei dati finanziari del gruppo Fiat Chrysler, e li ricordo brevemente, ma non è questo l'argomento. L'argomento è come si lavora alla Fiat, perché dopo aver dedicato tante puntate allo scontro dei contratti aziendali, dei referendum all'interno del gruppo, e avere molte volte dato conto quindi di come l'azienda andava avanti, di come la FIOM, CGL si opponeva, e poi delle impugnative giudiziali e poi delle controverse sentenze che la magistratura ha assunto in ordine alla riassunzione degli operai in Fiat, vogliamo, distante da quei toni, tentare di capire, di spiegarvi, di farci spiegare come davvero si lavora alla nuova Fiat in Italia, Fiat Pomigliano, pensando allo stabilimento in Serbia, su cui la Fiat sta accentrando allo stato attuale la produzione della 500L. Perché? Perché lì ha avuto vasti incentivi pubblici e si inizia a lavorare con turni di 10 ore al giorno, di cui una di pausa, per 4 giorni alla settimana. È questo il sistema di turnazione dello stabilimento di Kragujevac, che è stato inaugurato lo scorso maggio da Sergio Marchionne a pochi chilometri da Belgrado, e dove le assunzioni continueranno in tutto questo 2012. Ecco, in Serbia si lavora con questi due turni di 10 ore, cui il primo è dalle 4 alle 14, il secondo turno è dalle 14 alle 24, e di questo sistema si era parlato anche a proposito del Fiat Mirafiori, che però sapete per il momento è praticamente ferma. La questione a Fiat Mirafiori è vedere, constatare se poi ci sarà il promesso mega investimento di portata finanziaria ben superiore a quello di Pomigliano, che è stato più o meno nell'ordine di 800 milioni di euro. Si vedrà tra fine di quest'anno e inizio dell'anno prossimo se Fiat, malgrado la crisi terribile del mercato europeo e italiano, confermerà i suoi obiettivi di fare lo stabilimento a Fiat Mirafiori. Ma prima di capire come è stato organizzato invece, rispetto ai 10 ore di turno in Serbia, il lavoro a Pomigliano, qualche numero dalla trimestrale di ieri. Che cosa ci dice la trimestrale? Come è andato il gruppo Fiat Chrysler in questi secondi tre mesi del 2012? L'utile netto è sceso molto, perché l'utile netto è sceso da 1,2 miliardi a 358 milioni di euro, quindi inferiore a quello che si aspettavano gli analisti. E senza Chrysler, che macina utili e fatturato, Fiat ha più di 60% della Chrysler, la perdita sarebbe di 250 milioni circa, e quindi è la conferma che è in America la parte trainante. E se poi dall'utile netto in realtà levate le componenti atipiche, siete comunque in rosso nel secondo trimestre per 150 milioni, e invece c'era un utile di 76 milioni nel secondo trimestre dell'anno scorso. Quindi questi sono i numeri, non sono piaciuti al mercato ieri. In realtà l'azienda ha detto che è stato un buon trimestre e che si confermano gli obiettivi dell'anno in corso, che erano stati preventivati, anche se a luglio le vendite in Italia sceglieranno di un altro 20%, tanto per non farci mancare nulla. Nel chiedervi di ascoltare come è organizzato il lavoro nella nuova Fiat qui in Italia a Pomigliano, abbiamo scelto di sentirlo da tre osservatori diversi. Il primo è un consulente, un consulente del lavoro, è un ingegnere che lavora per Price e che di mestiere quindi ha le imprese dell'automotive, essendo un esperto del ramo, da anni congegna i piani organizzativi per il lavoro. Si chiama Gabriele Caragnano, è un ingegnere appunto industriale specializzato su questo tema, associate partner a PricewaterhouseCoopers Advisory SPA, ed è il direttore dell'associazione MTM Italia, che sono proprio i metodi di misurazione, sono sistemi per definire il tempo standard di esecuzione di una lavorazione. Gabriele Caragnano, grazie e buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Poi in aggiunta abbiamo un collega, Diodato Pirone, che per documentarsi e in vista di uno studio che sta predisponendo sull'argomento è andato proprio recentemente, la settimana scorsa, in linea a Pomigliano per parlare, per guardare direttamente con lo sguardo del giornalista e non del tecnico organizzatore, parlare con la gente in linea, farsi un'opinione. Quindi ho chiesto a Diodato Pirone del Messaggero di riferirci. Grazie a te, buongiorno. Buongiorno. E poi, visto che Gabriele Caragnano è un tecnico specializzato e fa il consulente per Fiat, Pirone l'occhio del giornalista, abbiamo chiesto, come è inevitabile per essere completi, a Giorgio Airaudo, responsabile settore auto della FIOM, che ringrazio, buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Abbiamo chiesto di ascoltare e di dirci se e come il racconto che verrà da Gabriele Caragnano e da Diodato Pirone lo persuada, non lo persuada, e in che cosa le cose vanno diversamente. Allora, cominciamo dall'ingegner Caragnano. Ingegnere, come funziona il sistema su cui è stata ridisegnata la turnazione e l'organizzazione del lavoro a Pomigliano rispetto a prima? Dunque, il sistema innanzitutto ha un nome con cui si è identificato la nuova organizzazione del lavoro, e questo nome è Ergo UAS. Ergo UAS, come dice la parola stessa, è la fusione di due concetti. Uno è quello dell'ergonomia, che sostanzialmente significa il controllo e la misurazione del carico di lavoro, o più tecnicamente detto carico biomeccanico, mentre la parte UAS è un sistema che ha una storia di diciamo più di 50 anni, è un sistema di misurazione e progettazione del lavoro di origine tedesca e che è distribuito in tutto il mondo attraverso un network di organizzazioni MTM nazionali che io presiedo dal 2002. No? E che è diventato praticamente il sistema di riferimento standard di eccellenza nel settore. Esattamente, soprattutto direi nel campo automobilistico, ma non solo, perché diciamo in generale i sistemi MTM sono utilizzati dall'industria più avanzata. Perché è un sistema che poi alla fine misura il lavoro, ma lo fa come risultato quasi gratuito. In sostanza il sistema MTM porta a concentrarsi, piuttosto che sul cronometro per misurare i secondi, i minuti, porta a concentrarsi sulla progettazione dei metodi di lavoro. No. Il sistema ad ogni movimento elementare assegna un tempo base di riferimento, che è uno standard internazionale, anzi direi lo standard internazionalmente più accettato nel mondo. L'Ergo UAS va un passo oltre, portando Fiat in una situazione sicuramente di modernità assoluta, in quanto è l'unica azienda in questo momento ad utilizzare in modo così completo il sistema di progettazione del lavoro integrato all'ergonomia, porta a determinare una misura del carico biomeccanico che sfocia, attraverso l'applicazione di questo modello, nella determinazione di una percentuale di maggiorazione di quello che era il tempo base ricavato con la tecnica UAS, e questa percentuale è più che proporzionale al livello di fatica. Sostanzialmente, se in una stazione di lavoro il livello di fatica è molto elevato, la maggiorazione che assegna e genera un periodo di recupero è molto più elevata rispetto ad una stazione in cui il carico biomeccanico è contenuto. Ovviamente tutto questo nel rispetto di quelli che sono poi i limiti imposti dalle normative, parlo di normative in materia di ergonomia e di carico biomeccanico. Quindi se da questo studio, soprattutto fatto in fase progettuale, risulta che una stazione con quelle caratteristiche di prodotto, di attività, di attrezzi e di sequenza di attività genera un carico biomeccanico che supera un certo limite, la stazione non è accettata e quindi viene riprogettata. Tutto questo porta alla progettazione di una sequenza di montaggio, quindi diciamo di una linea, immagini una linea nel settore automotive di solito conta fino a 400 stazioni di lavoro, lei vedrà 400 stazioni di lavoro, ciascuna con una chiara identificazione delle attività assegnate, con una misurazione di quello che è il tempo assegnato, basato diciamo su questo standard internazionale, e con delle maggiorazioni che sono variabili in funzione del carico. E quando diciamo cariche intendiamo proprio posture di lavoro, quindi se lavoro inginocchiato all'interno dell'abitacolo. Il carico biomeccanico di fatica per il lavoratore. Esattamente. Perché una delle più prestigiose riviste tedesche del settore ha attribuito a Pomigliano un premio, insomma, che di solito è considerato uno dei segnali degli avanzamenti migliori? Perché l'organizzazione in particolare, su che cosa ha meritato questo premio la nuova organizzazione? La nuova organizzazione ha dato, diciamo che questo premio ha riguardato sicuramente un ventaglio di elementi di giudizio che vanno anche oltre alla pura organizzazione della linea di montaggio. La linea di montaggio, i processi produttivi a Pomigliano sono risultati essere molto ben congegnati e progettati in tutta la loro interezza, per cui parliamo di una linea che scorre fluida, con un bilanciamento del lavoro molto, molto preciso, che non genera colli di bottiglia, il rifornimento dei materiali avviene in modo sincronizzato con l'avanzamento della linea. Però lei dice, oltre ai miglioramenti degli standard di fluidità, di produttività eccetera eccetera, quello su cui è tarato il sistema è il carico di lavoro del lavoratore. Questo è uno degli elementi centrali di questo modello organizzativo, lei dice? Assolutamente, sì. Direi che un altro elemento fondamentale organizzativo che è stato rilevato da questo premio è la partecipazione e il coinvolgimento delle persone, per cui troviamo allora, sulla linea aspetti un secondo, su questo sentiamo Pirone. Coinvolgimento delle persone, che impressione hai avuto girando per Pomigliano e parlando con lavoratori e quadri? La prima cosa che ti colpisce di Pomigliano è che è un ambiente di lavoro pulito, è una cosa diciamo effettivamente molto, ha un impatto che non ti aspetti, perché è tutto specchiato, non c'è una macchia per terra da nessuna parte, le divise dei lavoratori, le tute, sono delle tute grigie, sono assolutamente immacolate. La cosa non è secondaria, perché diciamo che c'è un'attenzione all'ambiente del lavoro veramente molto particolare. Intanto tutti nello stabilimento hanno questa tuta, non c'è differenza fra operai ed impiegati o quadri. Diciamo che anzi lungo le linee c'è una grande vetrata, una sorta di acquario, e i quadri, i responsabili dell'organizzazione, l'ergonomo, il medico e così via, hanno tutti questa tuta e diciamo sono a fianco della linea di produzione. Questo è il primo elemento che ti colpisce. Il direttore dello stabilimento, almeno il giorno in cui sono stato io nello stabilimento, che ho potuto girare, diciamo, ho potuto parlare con chiunque, senza persone che ho scelto a caso, era vestito con questa tuta. L'impressione che ho è che a Pomigliano, parentesi, fino a qualche anno fa era considerato uno degli stabilimenti, diciamo così, più difficili dell'automotive in Europa, dove la qualità non è che fosse proprio l'elemento determinante, dove molto spesso si è parlato di un tasso di assenteismo molto alto. Diciamo che era uno stabilimento difficile. Lì Fiat sta sperimentando obiettivamente un modo di lavorare assolutamente nuovo. Mi sembra ci sia uno sforzo di introiettare in Italia alcuni elementi del cosiddetto toyotismo che appunto partono dal coinvolgimento del lavoratore. Ok, allora tu quindi aspetta un secondo, fermo qua, io devo richiamare poi perché poi c'è un elemento che al di là di come si lavora il modello organizzativo, ieri Marchionne ha confermato l'elemento che inquieta tutti noi osservatori e naturalmente non può che inquietare tutti coloro che lavorano all'interno dell'azienda e nella filiera dell'automotive, che continuo a ricordare sono 42 miliardi nel 2011 senza Fiat in Italia e per la metà stiamo ancora parlando di monocommittenza o quasi nei confronti della Fiat. E ieri Marchionne ha detto è a ottobre che si deciderà il futuro di Fabbrica Italia, quindi il famoso punto su ma facceli vedere questi investimenti e questi modelli rispetto a come sta andando il mercato e come stanno andando voi resta sempre rinviato nel tempo. Chiedo ad Airaudo, di tutto quello che ha ascoltato fino a questo momento, di Carignano che dice quello che conta è tarato anche il nuovo modello non solo sulla sua fluidità, sull'aumento della produttività, è tarato sui carichi di lavoro inferiori rispetto a prima dei lavoratori e di questa atmosfera che Pirone ha trovato girando per un giorno a Pomigliano dicendo migliorate la partecipazione e così via. È una visione tra virgolette edulcorata per azienda, in che cosa non ci si ritrova? Poi andiamo all'incubo che poi Fabbrica Italia si riveli una promessa non mantenuta, ma intanto su questo modello organizzativo per chi ci sta dentro, è ovvio che chi non è stato riassunto capisco che dice vabbè potete parlare quanto volete ma intanto ho perso il posto, ma intanto per chi lavora lì con i nuovi processi è meglio o è peggio? Airaudo. Ma guardi, intanto secondo me sono dei racconti che non hanno memoria, perché il toyotismo è 20 anni che in Fiat con varie metodologie, varie applicazioni viene realizzato, cioè se uno andava a Melfi negli scorsi anni trovava una fabbrica egualmente pulita, tutte egualmente pulite, addirittura Mirafiori è così adesso, cioè quindi secondo me è bene che i giornalisti tornino in fabbrica, se ci andavano prima di Pomigliano, no, Pomigliano avrebbero trovato, avrebbero avuto un termine di paragone, cioè l'immagine del metalmeccanico in tuta blu, sporco d'olio, che lavora nel grasso, è un'immagine che è stata superata anche grazie a moltissime lotte sindacali negli ultimi 30 anni, a un confronto continuo con l'azienda che ha consentito miglioramenti tecnologici, produttività e miglioramenti delle condizioni di lavoro, grazie anche all'azione dei lavoratori. E quindi secondo me va un po' ridimensionata. Poi ovviamente quello è uno stabilimento nuovo e l'ultimo fatto dalla Fiat ha, come si dice, i luccichii di qualunque stabilimento nuovo. La cosa più importante è come lavorano le persone. Il nostro problema non è mai stato la metodologia, conosciamo l'ERGUAS, che è semplicemente una delle ultime evoluzioni, perché da quando esistono le catene di montaggio il problema di definire il tempo di lavoro della singola operazione, del singolo lavoratore in una linea meccanizzata dove il lavoratore lavora al ritmo della macchina, è il tema di sempre, c'è un'evoluzione di quelle metodologie, anche accompagnata dagli strumenti informatici, da quella che è, come si dice, l'evoluzione, tutta quell'evoluzione che riguarda poi tutti noi quando si affrontano temi che presuppongono calcolo in tempi veloci e media. Qual è il problema? È che l'uomo medio non esiste. Quando uno lavora su una posizione di lavoro, Giannino, vede, è differente se io che peso quasi 90 kg lavoro per 7 ore e 30 su quella posizione o ci lavora lei che pesa sicuramente per sua fortuna meno di me, capisci? No, è verissimo, o, certo. O se uno è un uomo, se uno è una donna, o se uno ha 50 anni, o se uno ha 25 anni, l'età media di uno stabilimento, per esempio Pomigliano è lo stabilimento più giovane che la Fiat ha in Italia in questo momento, come media anagrafica. Quello che noi avevamo chiesto alla Fiat e che non è riconosciuto nel contratto che è stato firmato è di poter contrattare quelle condizioni, non di dare per certo la scienza di quei numeri o la scientificità del sistema di approvvigionamento alle linee, perché vede, le faccio un esempio, ci sono posizioni di lavoro, perché il primo stabilimento in cui si è sperimentato l'ERGUAS è stato Mirafiori, dove devo dire che in una fase precedente al dopo Cristo di Marchionne, ma con Marchionne presente abbiamo fatto per un anno una sperimentazione condivisa. E noi della FIOM siamo stati tra i protagonisti di questa sperimentazione. Cosa è venuto fuori dalla sperimentazione dell'Ergo Wass a Mirafiori, che come vede si è sperimentato nella fabbrica più vecchia, non nella fabbrica più giovane ed ultima? È venuto fuori che in alcuni casi c'erano dei miglioramenti, in altri casi non ci si raccapezzavano neanche gli ergonomi della Fiat, perché avvicinare il sistema di approvvigionamento dei componenti determinava ovviamente per i lavoratori che gli si mangiava del tempo. Non so, se uno prima ci impiegava 20 passi per andare a un cassone, recuperare un componente, montarlo, se uno gli mette il cassone dietro la schiena, è vero che dal punto di vista della fluidità della linea, la linea se ne avvantaggia, ma è vero che a quel lavoratore gli si mangia il tempo di quei 20 passi. È chiaro? Le ho fatto un esempio banale. Sì. E quindi dal punto di vista del lavoratore, questo vuol dire, come si dice, saturare al massimo ad oggi possibile il suo tempo di vita dedicato al lavoro, che è vincolato a una linea meccanizzata di cui lui non decide i tempi. Ultima considerazione, che a Pomigliano purtroppo verificheremo fra qualche anno, ma su cui ci sono già delle indagini, dei dibattiti nella comunità scientifica, mi riferisco ai medici che si occupano delle conseguenze sul fisico e sulla salute delle persone, degli sforzi biomeccanici, perché ovviamente proprio perché non esiste l'uomo medio, non esiste la neutralità, e noi purtroppo abbiamo una consolidata esperienza, tra l'altro è anche purtroppo una tendenza in Europa, in cui le malattie e le patologie legate agli sforzi ripetuti sono in aumento. Cioè, nel momento in cui la tecnologia consente di, me la faccia dire da sindacalista, di spremere al massimo il tempo dell'uomo nella sua attività legata a una macchina, il fisico degli uomini e delle donne che lavorano reagisce assumendo su di sé patologie da sforzi ripetuti, tunnel carpale. Ecco, e quindi questa particolare attenzione sul carico biomeccanico di lavoro del lavoratore, che diceva Caragnano, insomma sarebbe un po' smentita. Avrebbe un senso se potesse essere verificata, contestata, affermata unilateralmente, lei dice è chiaro. Allora, affermata unilateralmente, magari funzionerà benissimo e addirittura migliorerà la salute dei lavoratori, ma fino adesso l'esperienza non antica, recente, dice che negli ultimi 15 anni lo stabilimento più giovane che c'era, che era Melfi, gli inidonei sono un terzo della forza lavoro, cioè i lavoratori che si sono ammalati o hanno avuto patologie che poi gravano sul Servizio Sanitario Nazionale, vorrei ricordare. Sono aumentati e non diminuiti. Caragnano, nelle obiezioni di Airaudo, che cosa trova di utile e cosa trova magari di non vero secondo lei? Ma in generale le osservazioni sono tutte utili, perché contribuiscono alla reciproca comprensione. Il concetto importante della media è bene chiarirlo e definirlo. Il sistema Ergo AS nasce soprattutto come un sistema di progettazione, quindi durante la fase di progettazione, quindi prima che il processo venga sviluppato e portato in stabilimento, genera un'analisi preventiva con l'obiettivo di intercettare a priori tutti i potenziali rischi derivanti dal numero di azioni, dai carichi, dalle posture. Tutto questo anche grazie, come si diceva prima, a dei supporti software importanti. Nel fare questo è ovvio che si debba ragionare su dei modelli parametrizzati sull'uomo medio. No, essendo in fase di progettazione non si sa ancora chi verrà assegnato a una determinata stazione. Quello che possiamo fare è prendere dei modelli che rappresentino la struttura fisica dell'essere umano, tenendo conto in casi importanti della differenza del genere, quindi uomo-donna, e in particolare mi riferisco ad esempio alla movimentazione dei carichi e dei pesi, ma tutto questo viene fatto in fase preventiva. Quando il processo viene sviluppato ed entra nella fase produttiva, quindi si iniziano a fare automobili, c'è l'abbinamento tra un gruppo di persone e una stazione di lavoro. Questo abbinamento è oggetto di un'altra analisi, c'è un'altra figura professionale molto importante nello stabilimento, che è quella dell'ergonomo. L'ergonomo a questo punto sa che il signor Mario Rossi, alto 1,80 con 75 kg di peso, deve lavorare in una certa posizione. E quindi c'è un'attenta verifica che quello che è stato preventivato e progettato sia ancora valido e allineato a quella che è la realtà. Se non lo fosse, è ovvio che ci sono degli aggiustamenti mirati su quella stazione di lavoro. Questo è un concetto molto importante, no? Perché a volte quando mi capita di spiegare questo tipo di attività, mi sento dire da persone che non fanno questo tipo di lavoro: ah, ma voi con questo sistema tendete a considerare l'uomo come una macchina. Ecco, mi lasci dire che è esattamente il contrario. Cioè, nel caso delle macchine, no, la definizione di un ciclo di lavoro passa semplicemente attraverso la misurazione cronometrica della durata delle singole attività, perché la macchina si muove sempre allo stesso ritmo e senza soffrire una fatica fisica, al limite una fatica meccanica nel lungo termine. L'essere umano invece è soggetto a variazioni quasi minuto dopo minuto di rendimento di quindi lavoro. Lei dice l'ergonomo non serve affatto a piegare la manodopera alla massimizzazione della produttività data dai tempi delle macchine, ma all'esatto contrario, a ritarare il processo, quello esatto, organizzativo e della produttività delle macchine secondo la specifica esigenza e la tenuta e ovviamente la necessità di evitare impatti negativi sulla diversità dei lavoratori. Esatto. Poi ecco, mi lasci sfatare anche questo discorso della riduzione dei passi e quindi la maggiore concentrazione di attività. Il concetto fondamentale che ci deve guidare è quello di progettare sistemi che siano competitivi. Nel fare questo, l'Ergo UAS dà dei vincoli chiari all'azienda e al lavoratore. È una chiara definizione di quelli che sono i limiti in termini di tempo e di fatica. È ovvio che tutti insieme dobbiamo cercare di massimizzare quello che è il valore aggiunto. Il cliente finale che compra un'automobile non vuole pagare per un operaio che cammina 20 passi, paga per l'autoradio che viene montata nel modo giusto, per le portiere, per tutti i componenti che fanno parte dell'automobile. Chiarissimo, ma la cosa degli inidonei che sono saliti a Melfi di cui parlava Eraudo, secondo lei? Allora, le cifre sono lì da leggere, quindi diciamo che sono incontestabili. Quello che posso dire è che sicuramente questa nuova organizzazione del lavoro non ha nulla a che vedere con le cifre attuali, perché per rilevare una variazione di malattie professionali dovute a un certo fatto è necessario un periodo di tempo che minimo è di 5 anni, no? Perché si tratta di malattie professionali dovute alla continuata esposizione, alla ripetitività per periodi molto prolungati. Airaudo, che dice su questo? Io trovo conferma delle cose che gli ho detto, anch'io so che ci vanno 5 anni per rilevarle e che è per questo che volevo avere la possibilità e volevamo che i lavoratori avessero la possibilità di contestare con la loro esperienza dove si verificassero delle palesi evidenti contraddizioni tra ciò che dice l'ergonomo aziendale, che ovviamente ha per obiettivo l'applicazione di un metodo e di una metodologia, ma non è la sua priorità la salute della persona, la sua priorità, come ha spiegato l'esperto, è, come si dice, di costruire un prodotto che sia competitivo e che consenta di essere acquistato. Faccio notare che quello stesso cittadino, cliente che compra un'auto, forse non è contento di pagare sulle sue tasse una spesa sanitaria crescente se il sistema produttivo genera delle patologie che aumentano i costi pubblici. Però, come si dice, il problema è mettere insieme le due informazioni. Chiaro. Allora, sentiamo rapidissimamente qualche ascoltatore a telefono. Marino, che chiama dalla provincia di Avellino. Prego, Marino. Buongiorno, innanzitutto è un onore. Niente, volevo dire questo. Io sono un agente del cambiamento del sistema di produzione Toyota. Andiamo in giro un po' in tutta Europa per quanto riguarda l'implementazione e lo sviluppo della mappatura dei flussi di valore, che è quello che interessa ai clienti. Ai clienti interessa che il prodotto sia fatto bene, sia fatto secondo uno standard. Sì. Non ci sono problemi in tutta Europa tranne che in Italia, mi spiego meglio. Nel momento in cui noi andiamo a valorizzare e a mappare il flusso dei lavori, sono gli stessi collaboratori, quasi sempre tedeschi ed austriaci, che ci chiedono l'installazione di sistemi audiovisivi per potersi vedere e correggere i movimenti, cose che in Italia è ancora preistoria. così come preistoria, la possibilità di qualsiasi tipo di ragionamento tra gli esterni, quindi coloro che vanno per quanto riguarda la funzione della mappatura dei flussi di lavoro, e le organizzazioni sindacali interne. Premessa, io vengo dalla cabina di montaggio, poi piano piano, lavorando e studiando, sono diventato un agente del cambiamento. Però questo è un sistema che trova delle difficoltà solo in Italia. Chiudo dicendo solo una cosa. I primi ad applicare il sistema di produzione Toyota, il TPS, siamo stati noi in Italia con la Ducati. Poi è passato alla Porsche, la Porsche con la Technic, adesso lo esporta in tutto il mondo, tranne che ovviamente in Giappone. Ecco, siamo indietro su tutto. Se noi capiamo che il posto di lavoro è sacro, soprattutto per il lavoratore, e che esso va aiutato a conservarlo e a migliorare la propria qualità, forse facciamo un passo avanti tutti come nazione. Tutto qua. Allora, Pirone, andando per reparti, parlando con i lavoratori, che impressione c'è? Perché qui c'è il contrasto oggi evidente, il contrasto tra l'ergonomo che racconta, l'ascoltatore che è un agente del cambiamento Toyota e dice però se in Italia noi abbiamo questi problemi. Airaudo ci dice guardate, noi non abbiamo niente in contrario, il nostro problema è quello di essere a fare rappresentanti per capire che nella media il lavoratore non è tutto uguale e di voler verificare e contrattare l'impatto che tutto questo ha sulla vita e la salute del lavoratore. Con chi è a Pomigliano direttamente le testimonianze raccolte da te di che tipo sono? Allora, io intanto a Pomigliano non è che il sindacato non esista e non è che non si contrattino diciamo le singole postazioni o i problemi che ci sono giorno per giorno. Ma questo però è un problema di politica sindacale che diciamo esula un po' dall'argomento del giorno. L'argomento del giorno è la qualità del lavoro di Pomigliano. Ecco, io quello che volevo dire due cose. Primo, che ho visto anche altre fabbriche Fiat, e la differenza a Pomigliano è data, a ragione Raudi, non tanto dalla polizia quanto dalla partecipazione del lavoratore, che si estrinseca in due elementi. Intanto a Pomigliano è una fabbrica dove si parla molto. Io una cosa che non sapevo, ma mi ha lasciato stupefatto, è che è obbligatorio, tra virgolette, che i lavoratori facciano delle proposte, 30 proposte l'anno, dal lavoratore più in basso nella catena gerarchica fino al direttore dello stabilimento. L'azienda chiede 30 proposte l'anno. Queste 30 proposte non sono un elemento burocratico, vengono visualizzate nella fabbrica con dei cartelloni dove tutte le squadre scrivono quali sono le loro proposte, a che punto è la loro realizzazione, quanto fanno risparmiare, e dove si vede che il Gennaro Esposito di turno ha avuto una bella idea e bla bla, e Salvatore Agnello invece non ha avuto nessuna idea. Cioè, e questo è un elemento di coinvolgimento molto forte. E anche sul piano dell'organizzazione ci sono delle grosse novità rispetto ad altri stabilimenti Fiat. Intanto gli operai che sono in catena di montaggio sono meno che a Melfi, meno che a Cassino, anche se adesso questi stabilimenti stanno adottando lo stesso sistema, perché a Pomigliano è nata una nuova figura di operaio che si chiama team leader, che è un leader di squadre di 6 operai. Questo team leader non lavora in fabbrica, coordina, pungola, spinge, ha una funzione di collegamento con chi invece ha la responsabilità diciamo dell'intera organizzazione. Il team leader è un operaio specializzato, sono generalmente diplomati, ce n'è anche alcuni che sono laureati e diciamo è la figura chiave dello stabilimento, perché su di loro viaggiano, diciamo risolvono tutti i problemi della giornata e hanno anche una possibilità diciamo di coordinare il lavoro, ed è gente che non lavora, ripeto, sulla linea e coordina il lavoro dei propri compagni, e i compagni si sentono anche abbastanza, come posso dire, rappresentati. Se hanno dei piccoli problemi, tipo, non so, hanno bisogno di un permesso, hanno un problema di salute e così via, si rivolgono al loro team leader, ed è la squadra nel suo insieme che spinge, diciamo, che raggiunge gli obiettivi di produzione. C'è un terzo elemento velocissimo che volevo raccontare, ed è la presenza femminile. Io sono rimasto molto colpito dal fatto che una serie di quadri a Pomigliano sono giovani donne, meridionali. Io vorrei fare il caso di Marisa Giannini, che è shift manager, cioè responsabile di un turno, ed è una ragazza di 30 anni, ingegnere meccanico, laureata alla Federico II con 110 e lode, una ragazza meridionale, mi ha fatto molto piacere trovare in una fabbrica del sud una ragazza di 30 anni, ingegnere, quindi specializzata, che coordina un lavoro di 1000 persone. Ecco, diciamo, da questo punto di vista quella fabbrica rappresenta un traguardo che dovrebbe essere diciamo diffuso, un modello che dovrebbe essere diffuso nel Mezzogiorno. Ricordiamoci che quella fabbrica non era considerata fra le migliori, e invece una rivista tedesca specializzata ne premia la produzione. Io penso che sia un segnale, anche sul fronte dello spread. Allora, Iraudo, andiamo alle dichiarazioni di Marchionne ieri, che ha ulteriormente diluito nel tempo la chiarezza sugli obiettivi di Fabbrica Italia. Io penso in particolare all'investimento su Mirafiori, che a questo punto diventa la tappa decisiva per capire Fabbrica Italia se è una promessa non più mantenuta, visto che il mercato va di male in peggio, oppure se è una scommessa sulla quale la cassa, di cui pure la liquidità, di cui pure il gruppo continua a salire trimestre dopo trimestre, fa comunque una scommessa sull'Italia e cominciare di nuovo da Mirafiori, oppure no? Lei che impressione ha, Iraudo? Allora, io le rispondo subito, ma devo aggiungere qualcos'altro, perché vede, è dal 1987 che ci sono i team leader in Fiat, non sono una novità di Pomigliano. I tabelloni con i suggerimenti ci sono da pochi anni dopo, ci sono addirittura i premi con i gadget, i buoni benzina, cioè quelle cose, quelle metodologie di implementazione dei suggerimenti sono note e ampiamente utilizzate. C'è anche una vasta ironia e barzellette di fabbrica negli altri stabilimenti, e ci sarà far breve anche a Pomigliano. Ma non è questo il problema, è che quell'organizzazione del lavoro e quelle condizioni di lavoro non sono negoziabili e contrattabili. Non è che lo dico io o che sono in competizione con altri sindacati, lo dice l'accordo che la Fiat ha firmato con i sindacati che l'hanno condiviso, quindi si può leggere e si può vedere. Ultima cosa, a noi i lavoratori Pomigliano raccontano anche altro, ovviamente lo raccontano lontani dalle camere e fuori dagli stabilimenti, purtroppo. Su questo c'è un contenzioso su cui, come lei ha ricordato, pure la magistratura si sta spendendo. Rispondo seccamente alla sua domanda. Il piano Fabbrica Italia è seppellito, non c'è più. Non c'è più, tant'è che neanche la Fiat ne parla. La Fiat ha detto che il 30 ottobre riformulerà il nuovo piano Europa. Sappiamo tutti che è un'ipocrisia, perché il piano Europa vuol dire sostanzialmente Italia, perché la Serbia ha un nuovo stabilimento, quindi non è pensabile che venga toccato. Forse capiterà qualcosa in Polonia, e credo che aspetteremo il 30 ottobre, cosa che peraltro Marchionne dice da mesi, dice che avrebbe rivisto il piano a fine dell'anno, e quindi il 30 ottobre siamo alla fine dell'anno. Io credo che avremo delle novità, io mi auguro che non siano novità che di nuovo chiedono ai lavoratori ulteriori sacrifici, perché gran parte di ciò che i lavoratori hanno dato ad oggi non è stato restituito dalla Fiat. La Fiat aveva detto: datemi più turni, datemi meno pause, datemi più straordinario, vi porterò i prodotti. Era ormai 2 anni fa e i prodotti non sono arrivati. Ma lei se lo vede un investimento a 1,3 miliardi per fare un piccolo sub legato alla 500? A Mirafiori? Guardi, io, come si dice, Radio Scarpa delle aree di progettazione e tecniche di Torino mi dice che il B-Sub è congelato. Appunto. Però questo me lo dice Radio Scarpa. No, ma credo di avere le stesse informazioni. Ecco, Radio Scarpa dice questo. Ovviamente in questo caso Radio Scarpa non è sulle linee di montaggio, ma è negli uffici tecnici. Esatto, negli uffici tecnici, quelli di progettazione. Perché ovviamente poi le persone, come si dice, nei tempi della rete parlano, raccontano, si relazionano, a prescindere dalle politiche aziendali. Io mi auguro che non sia vero. Io penso, come si dice, che per adesso registro che quel prodotto è stato spostato di quasi 1,5 anni, avrebbe dovuto partire quest'anno, ormai siamo agli inizi del 2014, perché dire fine del 2013 vuol dire primo semestre del 2014, chiunque conosca l'attività industriale dell'automobile lo sa. Credo che la Fiat abbia un problema simbolico su Mirafiori, Questo penso anch'io. Ma senta, ma visto che anche Carlo De Benedetti ha lanciato l'idea, questo non so se facendolo lo ha agevolata oppure no, la vecchia idea di cui ogni tanto parliamo, ma perché il governo non prende da una parte Fiat, dall'altra Volkswagen, che oltretutto hanno litigato durissimamente con i tedeschi che hanno detto: Marchionne, levati dai piedi e fare il capo della Confederazione Europea se osi attaccarci sui margini delle nostre politiche di costo, perché non li mette questa condizione? Aiuta un governo italiano a metterli seduti a un tavolo dicendo: in cambio del marchio Alfa Romeo vi prendete uno stabilimento? Oppure è impensabile che avvenga, secondo lei, questa trattativa, questo ruolo di mediazione del governo? È che avvenga, magari più in là, e solo per una ragione di scambio finanziario con un marchio che poi viene prodotto negli stabilimenti Audi. Questo è il mio terrore, che alla fine sia inevitabile che succeda, perché come dice Marchionne, ieri ha definito abnorme la sua liquidità, che devo dire è un'espressione curiosa, perché uno che definisce abnorme la sua liquidità ha solo da spenderla, per capirci, avrebbe ragioni per spenderla. Però il mio timore è questo, quindi io penso che i governi italiani, perché sono almeno due quelli che si sono succeduti, sì, nella crisi dell'auto e di fronte alle politiche di Marchionne, avrebbero, sì, dovuto da tempo intervenire. E io penso che se ci fosse la possibilità di portare un altro produttore in Italia, le dico di più, o tedesco o coreano, certo, io penso che andrebbe sfruttata. Bene, è che il capo dell'auto della FIOM e il mercatista che non pensa che i governi debbano loro fare i prezzi, però un produttore in Italia non farebbe male, secondo me, alternativo al vecchio monopolista. Grazie a Pirone, a Caragnano, a Iraudo, appuntamento con noi a domani.